appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Dopo il nuovo scandalo, la nazionale si ricompatta per l'europeo. Balotelli e Buffon ci credono. Hanno già scommesso sull'Italia in finale. E le miniere sono tante lì, restate in Africa. Hey ho, hey ho, andate a lavorare. Po, po, po, po, po, po, po.